Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donnelly, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi parliamo di Brexit, ancora una volta, lo stiamo facendo con una certa regolarità, di una Brexit che, come dire, abbiamo tante volte annunciato e nello stesso tempo non percorre quelli che sono poi gli appuntamenti che avevamo previsto a suo tempo, quindi ancora all'inizio dell'estate. Di questo, ma parliamo anche di investimenti. Nei giorni scorsi l'avete sentito, la notizia data direttamente dal Presidente della Commissione Europea Juncker sulla volontà della Commissione di restaurare alcuni dei grandi capolavori dell'arte italiana danneggiati o distrutti addirittura dal terremoto. Ecco, oggi si va avanti in questo filone. A Roma è stato infatti firmato un documento che dice sostanzialmente che la BEI, quindi la Banca Europea per gli Investimenti, libera altri 530 milioni di euro per le scuole italiane, perché c'è ancora molto da fare sull'edilizia scolastica. Così l'annuncio di Matteo Renzi, Renzi che ha incontrato i vertici appunto della BEI, tra i quali Dario Scannapico, il presidente. Lo sentiamo insieme in un passaggio. Oltre alla ricostruzione c'è soprattutto la prevenzione. Lavoriamo da mesi con la Presidenza del Consiglio e altre amministrazioni per il finanziamento del Piano Nazionale sul dissesto idrogeologico e abbiamo un primo concreto risultato che posso anticipare, Presidente. Nell'ultimo Consiglio di Amministrazione della Banca, la scorsa settimana, abbiamo approvato un finanziamento di 800 milioni per progetti di messa in sicurezza su tutto il territorio nazionale. Un altro programma quindi di investimenti che secondo noi mette in sicurezza e migliora la qualità della vita dei cittadini italiani. Un rapido accenno infine al piano Juncker. Da aprile 2015 il gruppo BEI ha approvato operazioni per 27 miliardi e mezzo di euro e 154 miliardi sono gli investimenti attivati. Siamo al 49% del piano da 315 miliardi. L'Italia è al primo posto in Europa, avanti a Spagna e Gran Bretagna. Questi dunque i passi in avanti compiuti su questo fronte, fronte ovviamente importante perché riguarda dei finanziamenti in infrastrutture, strutture di grande importanza nazionale. Intanto ci spostiamo nel Regno Unito, dove le autorità britanniche hanno aperto un'inchiesta su UKIP dopo che l'ufficio di presidenza del Parlamento di Strasburgo ha ordinato all'Alleanza per la Democrazia Diretta in Europa, gruppo dominato dal partito di Nigel Farage, di restituire 173 mila euro di fondi UE utilizzati per attività politiche nazionali, chiaramente in violazione alle norme europee. Così la BBC, secondo cui la Electoral Commission, che vigila sull'uso dei fondi elettorali, deve valutare se ci sia stata da parte dello UKIP anche una violazione delle norme vigenti nel Regno Unito. E invece stamattina abbiamo parlato, la nostra Valentina Forlanetto, con Domenico Manzioni, sottosegretario all'interno. Oggi infatti a Londra ha visto il ministro inglese per l'immigrazione, Robert Goodwill. Si parla naturalmente dei grandi macro temi, ma anche e soprattutto degli interessi degli italiani che vivono, lavorano nel Regno Unito. Lo sentiamo. È stata manifestata da parte del ministro inglese una chiara volontà di collaborazione a prescindere dalla Brexit, e anzi proprio con riferimento alla Brexit devo dire, e questo ci tengo a sottolinearlo per i nostri concittadini che vivono a Londra, ci ha tenuto a dirmi per l'appunto che i cittadini italiani che già stanno qui non hanno nulla a che temere con riferimento ai diritti che hanno maturato fino ad ora e alla possibilità di continuare a permanere nel Regno Unito. Ora, come lei sa, però il primo ministro aggiunge che il tutto vale a condizione di reciprocità, ma siccome per noi il problema degli inglesi che risiedono in Italia non si pone, nel senso che nessuno ha mai immaginato di togliergli i diritti che hanno, evidentemente questa cosa dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante per i cittadini che abbiamo presenti. Questo dunque un messaggio rassicurante. Un'ultima notizia: la Commissione europea intende avviare nel 2017 una fase sperimentale per fare passi concreti nella realizzazione delle modalità pratiche di funzionamento del progetto di regalare un biglietto Interrail ai ragazzi che avranno compiuto 18 anni. Quindi un grande classico dei viaggi di molte generazioni adesso entra all'interno di un progetto che viene sostenuto da uno delle figure più importanti dell'Europarlamento, il tedesco Manfred Weber. Staremo a vedere. È tutto per Europa 24, ci sentiamo domani. Grazie. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.